Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Uno, vabbè, e puoi stare. Nessuno, meglio ancora, così non c'è contagio, ma 100.000 no. No, 100.000 no, quello è assembramento, 100.000 non lo posso accettare. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, non siamo assembrati, alle 9-8 minuti, sono in studio da solo con dall'altra parte del vetro ben isolato l'Alpino in regia, il nostro Peter Bescapè. Saluto anche la redazione in fondo, la lontana non assembrata Miriam Lucchetti con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, tutti sparpagliati. Leonardo Manera in arrivo? Sapete che oggi manco io, lo so? Non lo so, ti faccio un appello pubblico, caro Leonardo, se sei all'ascolto. Stai venendo qui fisicamente o stai a casa? Uela, cialtroni! Grazie, caro ascoltatore, è sempre bello un po' di affetto battutino. Oggi ci ho messo solo 1:10 per arrivare, per fare tipo 4 chilometri a Milano, perché ci sono stati degli incidenti, strade bloccate, l'inferno in terra. Ma preoccupazione non vostra ma mia e dei milanesi che in questo momento magari saranno ancora imbottigliati nel traffico. Alle 9 minuti, se volete chiamarci all'800 24 00 24, oggi certamente parleremo del caso Suarez in apertura. 349 238 6666 è il numero per i vostri WhatsApp. Comunque per la precisione è 349 238 6666. Sì, vabbè, dai, ci può stare, in un impeto di egocentrismo e narcisismo ci può stare. Vai Alpino, vai. I will not be easy and it will not be easy. Ieri ho proposto in maniera simpatica un DPCM per abolire le dichiarazioni dei politici almeno nelle prime 12 ore dopo il voto, perché hanno vinto tutti. E devo dire che se c'è una cosa da abolire ancora di più, ma sono provocazioni, guarda, sono le provocazioni di un inacidito invecchiato precocemente male, cioè il sottoscritto, abolirei i giornali, o meglio i commenti il giorno dopo dell'analisi del voto. Una roba pazzesca. La cosa interessante sono solo i flussi elettorali, quelli lascerei, come dire, agli analisti, ma le dichiarazioni del dopo, ora ripartono i cantieri, adesso le riforme, ora il rimpasto, no il rimpasto, no, mamma mia, una roba che è mercoledì e già venerdì non se ne saprà più nulla. Ma a proposito di questo, Mattia Feltri oggi sulla stampa, il buongiorno, in prima pagina. Sì, grande trionfo del partito A, che rispetto alla precedente tornata avanza in tutte le regioni. Splendida affermazione del partito B, che in paragone alle ultime politiche consegue una decisa crescita. Eccellente risultato del partito C, che rispetto alle europee registra cospicui incrementi. Indiscutibile affermazione del partito D, che conserva le principali regioni. Considerevole successo del partito E, che fa sua una regione tradizionalmente amministrata dagli storici rivali. Eccezionale performance del partito F, che è andato ben oltre le percentuali di cui era accreditato. E la vittoria del partito G, che per la prima volta accede al ballottaggio. Impetuosa risalita del partito H, che in buona parte dei casi si dimostra decisivo nella coalizione. Significativo consolidamento del partito I, che segna una contenuta flessione. Straordinario debutto del partito L, che col nome nuovo e il nuovo simbolo presenta candidati ovunque. Sostanziale tenuta del partito M, che paga alleanze portate avanti con responsabilità. Chiara sconfitta del partito N, che impone l'apertura di una riflessione. Ecco, ho messo quest'ultima per dimostrare che sarei uno che sa anche perdere. Come diceva ieri il nostro buon Leonardo Manera, se lui fosse candidato e ha già lanciato delle proposte, leggeva su Facebook, inizierebbe a dire che si può perdere. Sì, si può perdere, farò male, cioè si può anche perdere. Magari questa è la vera rivoluzione che attendono i cittadini italiani. C'è uno che ha detto che hanno perso, l'ha detto però in modo polemico, forse per creare un dibattito con 4B, seguirà dibattito all'interno del movimento a cui appartiene, è il dibattito lanciato da Di Battista, che per il Movimento 5 Stelle in maniera pacata analizza la sconfitta. Io credo sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Considerate, vi do qualche dato, che in Campania passiamo dal 17% al 10%, e in Campania 2 anni fa il Movimento sfiorò il 50% alle elezioni politiche. In Campania abbiamo eletto decine di parlamentari, è campano il Ministro degli Esteri, è campano il Presidente della Camera, è campano il Ministro dell'Ambiente, è campano il Ministro dello Sport, e abbiamo preso il 10%. E poi ha detto abbiamo perso, dove siamo andati, dove non siamo andati, dove sono andato io, dove non sono andato io. Certo, questa sottolineare 100 volte della campagna sembra lievemente, se mi consentono gli amici del Movimento 5 Stelle, e se volete dire quello che pensate scrivete, chiamateci, un lievissimo riferimento al cosiddetto leader del Movimento 5 Stelle, cioè il Ministro degli Esteri Di Maio, lievissimo, lievissimo riferimento. Va bene, ma signori, alle 9:13 minuti e 14 minuti dobbiamo parlare del caso Suarez, che non è parlare solo di calcio, anzi qui il calcio veramente c'entra in modo marginale. La storia dell'esame fatto all'Università di Perugia dal calciatore Suarez, che ricordiamo gioca nel Barcellona, era in procinto, si dice era perché adesso la Juve pare l'abbia un po' scaricato, era in procinto di venire alla Juve, che aveva già gli extracomunitari tesserati, quindi doveva acquistarlo come italiano. E allora Suarez è andato all'Università di Perugia, ha fatto un esame che effettivamente a tutti sembrava un po' strano, cioè un esame lampo. E ora indaga la procura di Perugia, per carità, bisogna usare il condizionale, vedremo, però non è una questione di calcio, cioè qui si riassume tutto un senso di una certa italianità, se tutto fosse confermato, che è riassunta oggi anche da Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera: il senso dei soldi che comprerebbero i favori, il senso dell'occhiolino che si fa al potente di turno, prego passi avanti, conosci mica un amico, mi dai una mano, siamo nella patria del do ut des, ti do una cosa io oggi nella speranza che tu me la ritornerai domani, e dai, insomma, i favori, le raccomandazioni, conosci una strada più semplice. È tutto il senso di una certa italianità, un qualcosa che fa parte un po' di noi, fa parte un po' del nostro DNA, se permettete questa analisi antropologica. Oggi Gabriele Romagnoli fa un interessantissimo editoriale su Repubblica dal titolo Suarez e i prof senza anima, e cita un libro che è diventato famosissimo, peraltro postumo, un libro americano, un romanzo americano scritto dal docente universitario John Williams, si intitola William Stoner, parla di un collega fittizio, e in questo libro Stoner viene chiamato a far parte di una commissione d'esame. Il candidato da giudicare è altamente raccomandato, come si può sospettare fosse Suarez, scrive Romagnoli. Il futuro decano lo vuole promosso per interessi oscuri, e dei tre esaminatori due fanno domande facili, forse perfino concordate, hanno il voto in mente prima delle risposte, mentre il futuro decano è impaziente di sancire la promozione del suo protetto, il professor Stoner vede la propria immagine riflessa sulla superficie del tavolo di noce e gli sembra quella di un fantasma. Emette un sospiro e fa quello che sapeva di dover fare, ovvero fa una serie di domande non concordate e poi c'è la conseguente bocciatura. Così Stoner si rovina la carriera, passando da una promozione al prepensionamento e la vita che finirà nell'oblio. Quel professore, il professor Stoner, a differenza dei suoi colleghi, è rimasto fedele, scrive Romagnoli, a un principio di giustizia. Non avrebbe promosso un immeritevole perché a qualcuno serviva o perché c'erano in ballo tanti soldi. io ho detto: come possiamo parlare di questa vicenda? Beh, ma chiamiamo e sentiamo il parere, a mio modo di vedere molto interessante, di una docente e antropologa americana che da anni si è trasferita in Italia. Si tratta di Dorothy Louise Zinn, che saluto. Buongiorno, professoressa. Grazie di essere buongiorno qui. Lei è direttrice del corso di laurea Scienze Culturali e Comunicazione a Bolzano. Ha scritto diversi libri, ne cito uno per Donzelli Editore: La raccomandazione, clientelismo vecchio e nuovo. Allora, professoressa Zinn, le faccio ascoltare agli ascoltatori quello che ha dichiarato alla radio spagnola dopo questo esame uno degli esaminatori, il professor Rocca. Il signor Suarez è arrivato da noi presso le palazzine dell'Università per Stranieri di Perugia. È arrivato all'edificio sulle 3:30? 3:15. Era molto tranquillo, sereno, sorridente, sorridente. E ha svolto l'esame di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Un esame che si è svolto come modalità parlato. Esame orale, parlato, produzione, interazione orale, conversazione. La durata dell'esame è stata quella classica, 10-12 minuti. Durazione di 10 minuti. Vabbè. Dell'esame. 10-12 minuti, va bene, è tutto a posto, poi c'è la procura ora che indaga. Allora, professoressa Zinn, lei che considerazione può fare dal suo punto di vista di osservazione molto interessante? Viene da una cultura, quella americana, forse un po' diversa o no, ce lo dica lei, e in Italia ha osservato questo tipo di cultura. Che pensa? Beh, ci sarebbe tanto da dire. Innanzitutto, per alcuni versi è un po' diverso negli Stati Uniti in termini di, diciamo, il modo di pensare dominante è quello meritocratico, cioè come modo di pensare o ideologia, diciamo. Ciò non toglie che la raccomandazione esiste e come, e quindi bisogna sempre tenere presente questo. Nello caso specifico, attendo di vedere gli esiti delle indagini per vedere esattamente sia andata la vicenda, perché bisogna essere anche cauti in questi, certo, in questi fatti. Però da quello che insomma sta emergendo, si configura come quadro accusatorio, mi sembra piuttosto di corruzione e non raccomandazione semplice. Sì, perché ci sono delle telefonate, adesso si vedrà, ovviamente telefonate tra responsabili dell'Ateneo, qualcuno dice anche avvocati della squadra, che però la Juventus dice: noi ci siamo solo informati, non abbiamo fatto nient'altro di più. Però lei ha proprio osservato la realtà italiana, tanto che ne ha scritto questo saggio, La raccomandazione, clientelismo vecchio e nuovo. Intanto sgombriamo subito dagli equivoci. La raccomandazione di per sé è sempre negativa, è sempre un male? Assolutamente no, perciò bisogna dire che anche in questo caso, con un esame attento, se si tratta di pressioni blande o sempre che c'è, effettivamente il signor Suarez non sia stato in grado effettivamente di passare l'esame, o se c'è qualcosa in più che possa configurare un reato. Ora, la raccomandazione in Italia è un fatto culturale molto molto profondo, e questo è perché assume anche queste forme molto blande e innocue. Sì. Non è soltanto il fatto eclatante, la illegalità, la corruzione, eccetera, è anche nei fatti quotidiani, quando si va in un negozio e in quel modo, magari facendo il riferimento giusto alla persona, amica, eccetera, si ha lo sconto. Sì, anche sì, quello sì, è una forma blanda di raccomandazione che poi alla fine non fa male ad altre persone, cioè magari quando comincia a danneggiare i terzi o violare legge, violare principi ecco, certo. di uguaglianza e di giustizia, lì diventa un fatto grave. Però bisogna anche aggiungere che in alcuni casi, questo l'ho visto nel corso della mia ricerca, molti sostenevano che addirittura la raccomandazione poteva proteggere chi era più debole. Addirittura, cioè, perché? Paradossalmente diventa anche un modo di livellare il campo di gioco per chi parte con uno svantaggio. Ah. E in questo senso c'è anche una raccomandazione, se vogliamo, bonaria. Cioè, ho avuto diversi casi che sono stati raccontati nel corso della mia ricerca, gente che in assoluta buona fede e senza violare nessun principio di legge, eccetera, ha voluto dare un occhio di riguardo a qualcuno che ritenevano meritevoli, che però partiva con certi vantaggi. Ah, guardi, invece, perché la sensazione, leggendo anche i commenti sui social, leggendo, sentendo la percezione di molti italiani, è la classica, cioè eccolo, stiamo parlando sempre per ipotesi, perché va verificato, però il potente di turno ce la fa, mentre tutti i poveracci, tutti coloro che magari sono figli di immigrati e da decenni certo. puntano alla nazionalità, al passaporto, eccetera, ancora sono lì che aspettano. Cioè l'idea... Questa è la vera ingiustizia. Ecco, l'idea che la forbice allarghi tra il potente e il debole. No? Sì, sì. Ripeto, bisogna accettare il fatto specifico cosa sia successo e attendiamo questo. Però in realtà la vera ingiustizia è nei confronti di chi non ha nemmeno l'opportunità di fare il test veloce. Sì. Cioè circa 1 milione di giovani nuovi italiani, li chiamo io perché effettivamente sono nuovi italiani, 70% circa nati in Italia, parlano i nostri dialetti locali, sì. fanno tutto l'iter scolastico in Italia. Cioè, è assurdo che questa gente qua debba una fare grande tutta questa fatica procedura, per poi certo. diventare... Professoressa Zin, le leggo per esempio il messaggio di Domenico che arriva in diretta. Per il permesso di soggiorno di lungo periodo della mia compagna ancora un po' manca che ci chiedano gli esami del sangue e poi non abbiamo altri documenti. Ma sono tantissimi i messaggi di chi vive la vita reale di persone che chiedono la nazionalità e si stupiscono di come in 12 minuti di esame si possa ottenere la cittadinanza. Ma nel caso del signor Suarez, siccome ho capito che questo in passato ha avuto episodi che ha morsicato i suoi avversari, francamente avrei fatto piuttosto un test di educazione civica. Beva lingua, su un campo di calcio, sì, rimase storica la partita, tra l'altro so contro la nazionale. Un morditore seriale fra i concittadini, francamente. Mi dispiace, insomma, anche mio marito è juventino, devo aggiungere. Però... queste sono altre basi, insomma, su cui giudicare. Sì, tra l'altro un morso fu proprio contro la nazionale italiana, contro Chiellini. Fu una storica partita ai mondiali. Ieri circolava questa battuta. Un'offesa alla patria, sì. Insomma. Vabbè, ma su un campo di calcio succede. Guardi, ieri circolava questa straordinaria battuta. Mastica bene la lingua italiana, evidentemente, Suarez. C'è da dire un'altra cosa su questi criteri di test linguistici, cioè in realtà lui ha fatto solo l'esame orale per le condizioni di Covid, normalmente si fa anche lo scritto, sì. Lettura, scrittura. Io mi chiedo poi quanti italiani, cittadini italiani, sarebbero passati a livello B1, perché bisogna anche ricordare il grande linguista Tullio De Mauro, che solo 4 anni fa circa ha parlato del fatto, con molto allarmismo, cioè il numero di analfabeti e semi-analfabeti in questo Italia. Certamente. Quindi, francamente, anche questo va valutato. Professoressa Zin, le chiedo questo: lei vive di fatto a Matera, comunque ha vissuto a lungo a Matera, adesso insegna anche a Bolzano, insomma, conosce l'Italia, l'ha conosciuta dal suo sguardo dagli Stati Uniti e un po' da nord a sud. Ha notato in questo approccio alla raccomandazione diverse Italie o un atteggiamento diverso? No, guardi, alla fine, e questo è l'argomento nel mio libro, la raccomandazione è un fenomeno un po' universale. Detto questo, in alcuni contesti è più, un po' più nascosta, in alcuni contesti è più, diciamo, vissuta alla luce del giorno, e nel sud era proprio così, era un fatto molto presente e molto discusso. Ciò non vuol dire che sia di meno nel nord, nel centro-nord, anzi, però forse un po' più criptato. Io la ringrazio molto, Dorothy Louise Zin, grazie per essere stata qui con noi, antropologa. Voglio ricordare il suo saggio, perché uno dei suoi libri, visto che mi sembra quello più inerente al tema che abbiamo affrontato, La raccomandazione, clientelismo vecchio e nuovo, per Donzelli Editore. E, è uno sguardo, secondo me, interessante, perché insomma, di una cittadina americana che da tanti anni, parlando uno splendido italiano peraltro, sta qui e vive qui da noi, e ha indagato questo fenomeno che ci conferma essere di fatto universale. Massimo Gramellini la mette proprio sulla questione del denaro, il denaro che compra tutta. Davvero è abbastanza incredibile, effettivamente, perché sui social molti hanno un po' giustificato questa cosa dicendo: ma Suarez, se guadagna davvero 10 milioni, almeno spenderà i soldi qui e farà girare l'economia. Cioè, proprio l'idea: il ricco può venire, prego, gli apriamo le porte, stendiamo il tappeto rosso, perché così almeno spende i soldi qui. Il poveraccio se ne stia a casa sua. Ma io, vabbè, per carità, non commento e vado in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, la vergogna più grande in questa vicenda è proprio quella che il giocatore famoso in 2 giorni riesce a fare l'esame, ad avere la cosa, indipendentemente se l'ha fatto bene o male. Questa è una vergogna grande, e il povero immigrato deve aspettare 2 anni, 4 anni, 10 anni. Oh, ma cosa credi, aver scoperto l'acqua calda? Fammi capire, i compromessi, le mazzette, le raccomandazioni ci sono da quanto? 70 anni, dalle prime elezioni? Ma dai, per favore, ma di cosa stai parlando? Malino, tu sei entrato così in radio, eh? L'amico dell'amico dell'amico, e sei entrato. dai, no, scherzo. Invece, no, incredibilmente. Prego, prego. Milan, avvicinati al popolo, prendi la metropolitana per andare a lavorare. Magari. Per anni ho preso la metropolitana, adesso per questioni logistiche familiari che non interessano a nessuno non ce la faccio, ma magari potessi tornare. Io sono vicino al popolo, che Leonardo, prendo la metropolitana tutti i giorni, vengo qui in metropolitana dal lunedì al venerdì, fisso. Ma guarda che fisso in radio. Ma chi se ne frega? Ma soprattutto la metropolitana, sempre per essere vicino al popolo, l'amico del popolo, Leonardo Manera, l'amico del popolo. Comunque Manera, sei colpevole. Fisso qui, sempre. Lunedì sono andato a votare, ma avevo una vocina nella testa: vota Nasarco. Ma sai che secondo me tutta la vicenda Suarez, io la condivido. Pensavo tutta la vicenda di Nasarco. La condivido, ma scusa, Suarez si è fatto tutta la vita un culo così per diventare un calciatore famoso. Avrà diritto a qualche privilegio o no? Sì. Oh, chi è diventato famoso, cioè, ha diritto a qualche privilegio. Sì, altrimenti a cosa serve diventare un calciatore famoso se non hai qualche privilegio? Viva i privilegi di casta. Viva le raccomandazioni! Viva le raccomandazioni! Viva, vanno istituzionalizzate raccomandazioni, bisogna renderle esplicite, palesi, evidenti. Di legge. È giusto. Facciamo che un chi, DPCM. Per esempio, un calciatore famoso abbia delle diritto a scorciatoie facili. Giusto. Io condivido tutto questo, altrimenti non ha senso essere famoso, giusto? Sì. Ti sei fatto tutto un mazzo così per diventare famoso. A cosa serve? Dovrai guadagnare qualcosa. Già guadagna qualcosa. Ma non c'entra, è proprio in queste cose burocratiche che bisogna essere facilitati. E sono quelle sennò più... i 10 milioni di stipendio, se devi andare a fare la fila, ti danno fastidio. È una gran seccatura. Venga, venga. È bellissimo che ti strizza l'occhiolino. Venga, venga, passi di qui. Venga, che facciamo prima. Ding, ding. Poi però facciamo come una foto insieme. Nei bar, nei poi però facciamo una foto insieme. Certo. Poi però mi fa l'autografo. Venga, venga. Tu con le foto, quanti favori ti sei comprato? Nella io vita? Cerco di approfittare di quegli scampoli di notorietà che mi rimangono in tutti i settori, perché altrimenti a cosa serve veramente faticare? Ragazzi, ma io cosa vi devo dire? Rido anche. Chiamiamo un sindaco che è stato sicuramente anche lui raccomandato lì, mica si è conquistato i voti. Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, buongiorno e grazie di essere buongiorno, qui. Buongiorno a tutti. No, vabbè, sulla vicenda Suarez non le chiediamo niente, però lei è tifoso? Tifoso di appassionato di calcio? Sono tifoso della Nerossi Vicenza. Eh beh, giustamente questo. E si chiama ancora la Nerossi? Io è rimasto solo Vicenza. No, è stato recuperato con la nuova società di Renzo Rosso, è stato recuperato anche il Lanerossi. Ebbene, quindi va bene, quindi segue solo il Vicenza, diciamo, giusto? Sì. Come squadra di città. Allora, sindaco, in realtà noi l'abbiamo chiamata per questa vicenda che l'aveva portata all'onore della cronaca anche di recente, l'avevamo già richiamata. Lei, insomma, insiste su questa via del multare chi si droga. Ho letto questa cifra fino a 400 euro, cioè diciamo, e lei dice anche per il loro bene io prevedo questa norma, cioè multare chi si droga. No, le spiego, ne avevamo già parlato qualche tempo fa all'inizio anche con lei, Alessandro Milan, la ringrazio anche dell'occasione per spiegare meglio la situazione. Allora, noi stiamo facendo tutta una serie di azioni contro lo spaccio in coordinamento con tutte le forze di polizia, ma anche la polizia locale stessa si occupa di microspaccio e devo dire che stiamo facendo delle operazioni anche importanti, rafforzando la polizia locale con nuclei speciali, con il canale antidroga, con la videosorveglianza, e abbiamo soddisfazioni, diciamo, nelle azioni che compiamo. Dall'altra, naturalmente, quando si becca questo spacciatore, magari dopo qualche ora è già fuori, quindi abbiamo questa sorta di problema. Dall'altra, cerchiamo anche di colpire il consumo, perché chi viene beccato o dalla pattuglia o dalla biosorveglianza ad acquistare droga, a contrattare, che sia lo tossicodipendente abituale o che sia semplicemente il ragazzino o il professionista che va a comprarsi la dose, con la multa. Noi interveniamo con una multa, la quale è una sanzione amministrativa che ha un minimo edittale di 400 euro. Ah, quindi posso dire. Arriva fino a 500, se fino a 500. Sì, no, ma certo, ma è chiaro che io non immaginavo e non immagino che uno riduca tutto alla multa. Sarebbe, come dire, cioè uno, se il piano antidroga è solo la multa, non avrebbe molto senso. E quindi lei fa bene a precisare, dice facciamo una serie di iniziative, tra cui questa. Certo che però è questa che fa notizia, no? Pensare di andare a colpire, a sanzionare il drogato, magari lei dice il riccone che va a comprarsi la cocaina e i soldi ce li ha, il poveraccio che invece va non ce li ha. Andrebbe aiutato anche, andrebbe proprio noi, sì, preso, guardi, noi sono due le azioni, lo scopo della sanzione è quella di andare a colpire anche quei ragazzini che purtroppo si avvicinano al mondo della droga già a 14-15 anni e magari informare anche le famiglie che il proprio figlio si sta avvicinando a quel mondo, quindi è un modo comunque anche per arrivare in qualche maniera alle famiglie e informarle perché intervengano. Dall'altra, noi facciamo anche però un'azione di recupero sociale attraverso operatori di strada che avvicinano i tossicodipendenti, il ragazzino che va a comprare droga, insomma le persone che si avvicinano al mondo della droga, e cerchiamo di indirizzarle verso il SERD, verso le comunità. Ed è un servizio che facciamo già da un anno. Un ragazzino di 14 anni, mi scusi sindaco, sì, veramente se a 14 anni finisce, ed è vero che queste sono le età purtroppo in cui a volte si finisce anche nell'eroina direttamente. Purtroppo sì. Si è abbassata molto l'età negli anni, e vuol dire che cioè ha un disagio totale alla base, nel senso c'è qualcosa che non va, è lì che la sanzione di 400 euro, la seconda parte del discorso, cioè avvicinarlo, cercare di aiutarlo, io la capisco perfettamente, la prima parte che lascia un po'... No, la sanzione è il minore, chiaramente rispondono i genitori, perché maggiorenni chiaramente vengono messi nelle condizioni di sapere, lo scopo non è far cassa, tanto per essere chiari, perché poi i soldi vengono reinvestiti, e questo lo prevede l'ordinanza, vengono reinvestiti nella sicurezza, nell'azione di prevenzione. Questo è il vincolo che abbiamo messo per quelle risorse che entrano. È proprio per mettere nelle condizioni di famiglia di saperlo. Tante famiglie non lo sanno, pensi che a Vicenza una dose di eroina gira intorno ai 4-5 euro, quindi niente. E quindi è facile, iniziano sniffandola e dopo magari passano alla siringa, all'endovena. Quindi ecco, questa è l'azione, un'azione che non è soltanto legata alla sanzione amministrativa, è un'azione a 360 gradi che colpisce lo spaccio ma anche il consumo. Sì, quasi, informare i genitori, così almeno... Sì, questo è fondamentale. Io credo che dove ci sia offerta c'è anche domanda, no? Quindi c'è una grande offerta, evidentemente c'è anche una grossa domanda. Sì. Però se non sbaglio la legge non punisce il consumo... legge non consuma, infatti, e questo è un altro... Secondo me è un altro limite, per come la vedo io personalmente, però cosa fa? La polizia locale segnala il consumatore alla prefettura, la quale poi interviene se per esempio uno ha la patente viene di fatto sospesa e viene sottoposto a visita medico perché non si riveli un tossicodipendente abituale che poi si mette in auto e magari provoca un incidente però mortale. Il punto giuridico è interessante, perché come dice Manera, se non è sanzionato penalmente il consumo, la sanzione amministrativa su cosa si basa? Cioè cosa c'è scritto sulla multa che la persona riceve? Che violazione ha fatto? La violazione è che l'ordinanza, siccome c'è una situazione di spaccio in grande crescita, con tutta una serie di implicanze, insomma conseguenze, noi interveniamo su coloro che vanno a contrattare o consumano all'aperto, cioè chi si fa una siringa all'aperto in luogo pubblico, ovviamente non a casa sua, ci mancherebbe, in un luogo aperto al pubblico è sanzionato amministrativamente. Quindi in base a un'ordinanza del sindaco. Sì, sì. Un'ordinanza sindacale che diventerà poi parte del regolamento di polizia urbana del Comune di Vicenza. Quindi alla fine la motivazione sostanzialmente è quasi di, fra virgolette, di ordine pubblico. Ordine pubblico. Esatto. Ma questo anche se viene, perché solo se viene preso a consumare, perché lei dice a casa no, o se viene anche preso a contrattare, anche a contrattare. Anche a contrattare, sì. Cioè non bastano secondo lei le leggi con le forze dell'ordine che possono intervenire nei confronti soprattutto dello spacciatore nel caso di una contrattazione? No, quello è un altro ambito, chiaramente noi stiamo lavorando con le forze dell'ordine a tutta una serie di azioni di polizia. Rispetto all'ultima chiacchierata che ci siamo fatti in agosto, c'è stata un'operazione di polizia contro lo spaccio di droga, hanno arrestato 27 spacciatori nigeriani che stazionavano in un'area conosciuta a Vicenza, che è Campo Marzo, dove c'era uno spaccio importante, e devo dire che è stata un'azione molto importante che li ha portati in carcere in attesa di processo, quindi sono rimasti dentro il carcere, sono ancora tuttora agli arresti. Sì. Vabbè, sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Vicenza della Lega. Grazie a voi. Francesco Rucco, grazie per essere tornato qui da noi. Poi, cari ascoltatori, diteci cosa ne pensate. C'è chi appoggia, molti criticano. Quando si parla del tema della droga, la soluzione non c'è mai. Di certo, ma è una banalità la palissiana, come dice il sindaco. Se c'è, ma sottoscrivo, se c'è domanda. C'è anche l'offerta, voglio dire, anche i 27 che ha detto arrestati credo che verranno rimpiazzati, perché finché ci sarà una domanda da parte dei consumatori ci sarà chi offrirà la droga, questo non da 10 anni ma da 10.000 anni o da un po' meno. Ma forme di droga sono sempre esistite per l'uomo, no? Sì. Perché lo dici con questa sicumera? No, ti guardavo. Sicumera. Ti guardo perché... Hai detto con una sicumera che mi ha anche un po'... La cosa che viene premiata, la sicumera viene sempre premiata, sì, è per quello che io mi sto sicumerando. Vabbè, ma adesso dopo il traffico ci dici proprio il privilegio che hai ottenuto, proprio quello che non potrai mai scordare per la tua notorietà. Proprio una cosa che nella vita dici, oh, la, finalmente aver lavorato per essere diventato famoso mi ha permesso di avere delle scorciatoie. Oh, sai che ci devo pensare, sì, adesso vedo se mi viene in mente. Un minuto il traffico, inventane una, come fai sempre, come ti direbbe Anacleto, Pinocchio, inventane una. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, hai avuto tempo per pensare, caro Leonardo, a quella volta in cui... Quella volta in cui un bagnino mi ha dato un ombrellone in prima fila. Io ero dietro, confinato nelle file posteriori. Oh, manera, venga. Venga, la mettiamo negli ombrelloni Prestige. Mi ha dato un ombrellone Prestige, venga. E tu, ma no. Va bene. Sto bene anche qua dietro. Venga, no. Ma sto bene. Va bene, vengo. Facciamo una foto? Sì, dice, poi però facciamo una foto. Va bene, facciamo la foto volentieri. Quindi ho avuto questo mio ombrellone Prestige fronte mare. Questo è l'unico privilegio che ho avuto, credo. Perché poi anche l'unico, scusa, hai detto che vai avanti a privilegi, vai avanti a favorini, favoretti. Sì, ma non posso renderli noti qui. Non voglio che poi così si renda troppo nota questa mia caratteristica di approfittare di questi miei scampoli di notorietà. Questo dell'ombrellone è una cosa anche simpatica che non indispettisce nessuno, secondo me. Per esempio, vedi, un'ascoltatrice dice a me una brioche all'autogrill nessuno l'ha mai offerta. Invece ricordiamo che qualche giorno fa in diretta Leonardo Vanera era all'area di servizio Castagnolo. C'era anche Sandro Fortunato. Si è fermato un camionista su nostro invito. Si sono fermati gli ascoltatori e sono andati a trovarlo e gli offrivano. Adesso tutto, magari lo rifaccio tutto. La settimana prossima vado in un'area di servizio qui vicino a Milano. Quella Brianza Nord, Brianza, sì. Sud, e rifacciamo questa cosa. Va bene. Si sa che Manera ha linea diretta con l'INPS. L'INPS ha risolto il problema. Ho risolto. A quanto pare ci sono tutti i miei contributi, quindi tra pochi anni potrò usufruire della meritata pensione. Avendo cominciato a versare contributi nel lontano 1987. Ecco. Ricordiamo che il dramma è che per 87, figurati quanti anni sono. Manera pensava di avere perso i contributi perché chiamava all'INPS e dicevano no, non risulta nessun contributo a suo nome. Sono già 33 anni che verso i contributi. Vai. Le vite degli altri. C'è un film che alcuni di voi ricorderanno che si chiama proprio così, Le vite degli altri. E racconta di un dirigente della vecchia Germania Est che spia la vita di una coppia di presunti oppositori al regime e che poco alla volta ne condivide le passioni, le pulsioni e anche il credo politico. Ecco, mi è venuto in mente questo titolo ieri quando guardavo i risultati delle elezioni regionali. Come in tutte le elezioni, dopo i partiti principali, nelle schermate degli exit poll e poi delle proiezioni, c'è sempre un'ultima riga che riguarda gli altri. Di solito sono partiti poco significativi, con numeri intorno allo 0, oppure liste civiche di scarso successo e destinate all'irrilevanza, e che vengono liquidate con un generico altri. Il fatto è che dietro a quel generico altri ci sono uomini e donne, persone che per un periodo della vita si sono buttate nell'agone politico, probabilmente anche con qualche aspettativa. E a me è venuto voglia di spiare le vite di quelli che vengono genericamente definiti altri partiti. Cosa fanno quelle persone che aderiscono agli altri partiti? Perché hanno deciso di provare a far politica pur sapendo che avrebbero avuto risultati scarsissimi? Com'è la loro vita sentimentale? Quanti di loro hanno provato a farsi eleggere magari perché innamorati di un consigliere comunale che speravano di frequentare durante le riunioni di giunta oppure per una pizza post consiglio comunale? Quanti di loro invece sono anziani e cercavano un'occupazione per la vecchiaia più proficua del giocare a briscola al bar? E i giovani? C'è qualche giovane che invece di iscriversi a qualche app di incontri preferisce cimentarsi ancora con la passione politica? Insomma, chi sono queste persone? qual è stata l'emozione di quelle persone quando per la prima volta si sono cimentati in un comizio elettorale? Qual è stata la prima frase con la quale hanno esordito? Com'è stato il loro primo discorso? Le loro mogli, i loro mariti erano orgogliosi o imbarazzati? Io ricordo, per esempio, quando cominciavo a fare spettacoli, mia madre, un po' vergognandosi della situazione, era solita dire in giro che facevo un po' il comico, oppure vuole fare il comico, come dire, è una scelta sua, noi non c'entriamo. E poi aggiungeva, più orgogliosa, ma studia anche legge, non immaginando che non mi sarei mai laureato. Ecco, le mogli o i mariti dei candidati di queste liste definite altri, come si rapportano con gli amici, cosa dicono? Vuole fare un po' il politico, ma continua anche a fare il fruttivendolo, l'avvocato, il macellaio, insomma è un'idea sua, lo sconsigliato ma è testardo. Oppure in famiglia sale l'orgoglio immaginandosi già invitati a qualche cena al Quirinale. E poi i nomi e i simboli di quelle liste civiche, di quelle liste che vengono genericamente definite altri. Tra Milano e Monza, per esempio, c'è una cittadina che si chiama Trucazzano. Io non so se esistano liste civiche a Trucazzano, ma come potrebbero chiamarsi queste liste civiche per Trucazzano? Trucazzano Libera, Insieme per Trucazzano, Trucazzano Domani, Amici di Trucazzano, Trucazzano per sempre, Trucazzano Capitale, Trucazzanissimo. Insomma, salutiamo tutti gli amici di Trucazzano. Insomma, esiste. Dietro quella generica definizione di altri ci sono migliaia di vite che dopo gli scrutini finali dovranno tornare a riporre con un po' di amarezza i sogni nel cassetto, almeno fino alla prossima tornata elettorale, quando sogneranno di uscire da quel generico altri e di trovare scritto il proprio nome e magari anche vedere la propria fotografia in qualche maratona televisiva elettorale che dia loro finalmente la giusta ma effimera notorietà. Amici di Trucazzano, ribellatevi, vi ha preso in giro in diretta nazionale. Io vorrei fare una lista per Trucazzano che appunto si chiama Trucazzanissimo. Secondo me avrebbe la maggioranza relativa, Trucazzanissimo. Sfida Luchetti, dice che il sindaco di Trucazzano è stato eletto con la lista civica prima il nostro comune. Vedi che non la citano, non citano prima il nostro comune. Beh, sarà di ispirazione leghista, immagino, prima gli italiani, prima il nostro comune. Chiamiamolo il sindaco di Trucazzano. Chiamiamolo Fabio da Arezzo, buongiorno. Dopo magari. Buongiorno. Prego, Fabio. Solo per dirvi, no, che a mio avviso le raccomandazioni sono indispensabili, giuste a volte. Giuste? Perché giuste? Certo. Perché uno raccomanda uno di cui si fida? No, no, fidarsi mi sembra un po' massonico. Più, no, che altro, più che altro raccomandare le persone o coloro i quali hanno le capacità e l'intelligenza per ricoprire certi ruoli. Sì, fidarsi in quel senso, non sono della massoneria, caro. È un tipo diverso di raccomandazione, però esatto. Un conto è dire guarda, questo è uno bravo, può fare quel lavoro, un altro è guarda, diamogli l'ombrellone Prestige, che esatto. È una cosa diversa. No, Fabio, adesso dobbiamo andare al giornale radio, ma quello che a cui fa riferimento lei è, come dire, se vuole, la lettera di presentazione, per esempio, che nel mondo anglosassone vale, cioè è giusto, cioè la persona che ha lavorato con me, ma oppure anche le segnalazioni, anche qui gente che ha lavorato a Radio 24 poi va da un'altra parte e si scrive la lettera dicendo è brava, è competente, sa fare queste cose. Quello non è una raccomandazione, è una segnalazione di una persona in gamba, è una cosa un po' diversa. Io sono favorevole a saltare la fila se sei famoso, questa è la cosa che sostengo io. L'ombrellone Prestige. Cioè, lui vuole adesso dal sindaco di Trucazzano una consulenza, adesso che lo chiamiamo. Vabbè, dopo il giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. La multa che si droga, una genialità, così la pagheranno con qualche scippo o rapina. Milan, Suarez non vedeva l'ora di masticare di nuovo un po' di italiano. Questa l'hanno già detta. Milan, ma ti sei mai domandato come mai tanti giornalisti giovani hanno il cognome di un giornalista della generazione precedente? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Ma tanti, non lo so. Beh, sì, è molto diffuso, è vero. So, io per esempio no. Tu no, tu hai un parente che lavora a Radio 1, se non sbaglio, una parente, Anna Milan. Ma non è vero. Sì, vi siete raccomandati a vicenda, secondo me. Allora di quello che vuoi, non è una parente. Comunque, vai. Ma Nera, ciao, ma i tuoi bei sondaggi che fine hanno fatto? Ciao! Lo so, è pigro! No, no, do una spiegazione. Allora, non è colpa mia, è colpa di Lorenzo Nespoli. Perché? Ma adesso spiego. Ma è lì in plume, sì. Allora, l'hanno spostato sullo sport. Diciamo più in linea generale che è colpa del Covid. Perché adesso Lorenzo Nespoli viene qui una settimana ogni tre a occuparsi di questa trasmissione. Quindi io potrei farli quei sondaggi solo quando c'è Lorenzo. Quindi una settimana su tre. E perché lui non c'è gli altri giorni? Ma perché potresti farli solo e con chi li Lorenzo? Faccio? Con Miriam? Ma figurati se si mette lì. Ma no, ma non ha nessuna voglia di star lì un'ora a sorbire quelle cose. Lorenzo è l'unico che le faceva. Cioè l'unico che ti sopporta. Sì. Quindi essendoci una settimana su tre non è possibile dare continuità. Lorenzo non, è colpa di Lorenzo. Non prendetevela con me. Ma con Lorenzo, guarda, io difendo Lorenzo. Io li farei volentieri anche con Miriam Lucchetti, ma lei latita. Vabbè signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, eccoci qua, le 10 minuti, adesso vi ricordiamo. Colpa di Lorenzo Nespoli. Sì, va bene, dai. Vi raccontiamo questa storia kafkiana per la quale c'è un colpevole, forse Lorenzo Nespoli. No, scherziamo. Lo facciamo con un ospite che è Federico Bianco. Buongiorno Federico, studente buongiorno. Di Reggio Emilia. Esatto, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sì, ho letto un'intervista al Resto del Carlino in cui Federico ha definito la situazione, si è permesso di definirla ridicola. Io direi che sei stato anche molto molto generoso e molto tranquillo. Allora, Federico Bianco, dopo aver fatto la maturità, è andato una settimana in Croazia con amici, è tornato. Vabbè, il risultato è in quarantena dal 31 di luglio. Non stiamo scherzando, 31 esatto. di luglio. Cioè dal 31 di luglio che non esci di casa? Esatto. Ma come mai? Così. Ovviamente siamo andati in Croazia per festeggiare il viaggio della maturità e ci eravamo informati prima di andare, sia chiamando l'igiene pubblica che anche sul sito della Farnesina, era considerato paese sicuro, quindi dato che comunque rispetto all'Italia, confrontando un po' i prezzi, là costava meno. Una buona percentuale in meno, abbiamo deciso di andare lì. Vabbè, insomma, al ritorno sei positivo. Esatto. Insomma, positivo. Esatto. Attenzione, dal 31 luglio, Federico, correggimi, non ha mai avuto alcun sintomo, niente. Esatto, sei da sempre asintomatico, al contrario comunque del gruppo dei miei amici che sono usciti tutti dalla quarantena circa due settimane fa e loro... di sintomi invece ne avevano avuti, abbastanza blandi, quindi magari un po' di febbre e distorsione dei sapori odori, comunque roba abbastanza comune, però loro sono usciti, quindi non sono certo ovviamente che ci sia un collegamento, però comunque anche una mia amica è ancora in quarantena, anche lei è asintomatica, e quindi suppongo che comunque chi è sintomatico di media rimanga di più in quarantena. Sì, perché il concetto è che ci vuole il doppio tampone negativo, cioè due tamponi negativi. E tu a che punto sei di questo percorso? Ma fortunatamente, adesso non voglio tirarmela, ieri ho fatto un tampone da negativo. E questo è il primo. Però... Esatto, e ne avevo fatto uno anche un paio di settimane negativo, poi il secondo era diventato il positivo, quindi il primo vuol dire poco e niente. Cioè, è anche incredibile, fa capire un pochino la... Cioè tu hai fatto un tampone prima negativo e poi ti sei positivizzato e poi sei tornato negativo. Nel gruppo di miei amici è stata abbastanza comune come cosa, circa è successo a un terzo se non la metà del gruppo. Questo fa pensare che anche la... come dire... attendibilità del tampone, boh, non lo so, magari si sa che c'è una percentuale di attendibilità, però in questo caso tu ti stai attrezzando per stare in casa per tutta la vita? Esatto. Per sempre. Ce l'hai la PlayStation? La PlayStation ce l'hai? PlayStation? No. Preferisco Netflix. Vabbè, Netflix. Quindi Netflix. Sei in attesa di un altro tampone adesso, dovrai fare ancora un tampone. Sì, nei prossimi giorni, spero domani. Ma in tutto questo è vero che non hai fatto l'esame di ammissione all'università, cosa volevi fare? Ma io volevo provare dietistica che è all'interno di professioni sanitarie, che appunto per entrare serve l'esame che è simile medicina, sono stati gli unici due esami che sono quelli che si svolgono a livello nazionale, che sono stati fatti in presenza, al contrario di tutte le facoltà che hanno fatto un test d'ingresso online. Quindi anche questa scelta non l'ho molto capita, perché tutti gli altri test d'ingresso li hanno fatti online, invece medicina e professioni sanitarie, anche il veterinario penso. Allora, arriva questo messaggio, scusa Federica, arriva questo messaggio da, credo, un ascoltatore. Ecco, io questo veramente non lo sopporto. Cioè, la prossima volta imparerà a prendere precauzioni. Cioè, c'è questa mania di pensare che chi prende il Covid se la sia andata a cercare, se la sia meritata, sia un disgraziato. Oh, ma voglio dire, ma come vi permettete? Ma come vi permettete, dico io? Cioè, di una persona che si è ammalata, di fatto, tecnicamente, anche se non ha avuto mai sintomi. Esatto. Ma io non lo so. Cioè, la prossima, capito? I moralizzatori. In Italia c'è il moralizzatore. Ah, Federico, avrai fatto la movida. No, ma secondo me l'accusa arriva anche solo per il fatto che sei andato in Croazia, no? Sì, quando si dice, andato in Croazia. No, ma ne ho sentite su Facebook, anche perché avevo fatto un'altra intervista appunto riguardante il fatto che molte persone, sempre sul resto del carrino, molte persone avevano detto su, perché appunto eravamo andati in Croazia, allora avevamo fatto un'intervista a un mio amico cercando un po' di smontare, diciamo, le accuse. Ne ho viste di tutti i colori. Ecco, un'altra ascoltatrice, pensiero negativo a tutti i genitori che hanno lasciato i ragazzi andare all'estero quest'estate. Era consentito dalla legge. E come ci ha detto Federico, sul sito della Farnesina, la Croazia era considerata un paese sicuro. Quando il tampone l'ha messo dopo dal rientro dalla Croazia, tanto per dire. Io non lo so, ci stiamo trasformando in un popolo, lo diceva Manera, di questurini, moralizzatori, tu fai male. No, ma poi bisognerebbe vedere anche da che pulpito questi signori considerare anche le loro vite, se sono così cristalline. Andiamo a vedere le vite degli ascoltatori che mandano queste cose. Iniziamo, stato patrimoniale, tasse, rifiuti, multe, voglio sapere tutto allora con questo principio, no? Che cosa fanno nella vita, se pagano sempre, se sono puntuali, se... vabbè, insomma, lasciamo stare. Poi la motivazione tua è stata anche del fatto che effettivamente costava meno. Ricordo che un anno, proprio quando ero ragazzo anch'io, poco più, andai anch'io in Croazia proprio per risparmiare un po', perché costava meno. Insomma. Si è permesso di festeggiare la maturità! E insomma, non sia mai, bisogna essere sobri, moralisti e non festeggiare. Tristi, e tristi, Federico. Vabbè, quando ti libereranno al secondo tampone negativo? Questa cosa del secondo tampone, tra l'altro, non c'è in tutti i paesi. Esatto, perché poi adesso molti, diciamo, figure abbastanza credibili, tra cui Venturi, l'ex assessore appunto dell'Emilia-Romagna, che è la mia regione, e anche per esempio il virologo Bassetti, stanno dicendo che è quasi uno spreco di tamponi, poi anche addirittura le direttive dell'OMS che vanno a dire che dopo, soprattutto se sei asintomatico, ma dopo tot tempo, un paio di settimane, non sei neanche più contagioso, quindi io proprio asintomatico da due mesi quasi, sì, sì. No, ma guarda, Federico, in bocca al lupo. C'è un ascoltatore che mi scrive: sì, siamo un paese, un popolo di odiatori. Io ho fatto il cammino di Santiago con i miei figli di 11-18 anni ad agosto. Non mi sento un criminale irresponsabile. Comunque io, infatti, non lo sei, caro Federico, ascoltatore, visto che basta fare quello che è consentito dalle leggi. Federico, ti do un consiglio: adesso, quando verrai liberato dalla tua stanza, vai subito a fare un giro in Francia. Che c'è un bel numero, e dopo torna. E dopo così per attirarti ancora un po' di vabbè. Grazie Federico, in bocca al lupo. Grazie ovviamente voi, per tutto, credi. Intanto per tanto ma stai attaccato a Netflix, ma che te frega, ma chi ti ridà questo periodo della vita in cui puoi fare assolutamente quello che vuoi da mane a sera. Ma io non lo so, veramente, scusate, mi sono infervorato, ma perché c'è questo istinto moralisteggiante di dire tu hai sbagliato, tu... Ma ragazzi, ma... pensa poi se... Non abbiamo chiesto a Federico se era un runner, magari era un runner, cioè ce le aveva tutte lui per essere runner Movida e Croazia. Runner Movida Croazia, giovane, maturità, beh, anche un po' romagnolo, quindi insomma dedito alla bella vita, basta, tutte ce le aveva. Anzi, Emiliano. Vabbè, 10-18, traffico. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Niente, Leonardo, è il ragazzo, deve avere pazienza, deve seguire la prassi, oltre alle leggi, attenzione, oltre alle norme, ci scrivo, da seguire, ce n'è un'altra, il buonsenso, scrive un ascoltatore, chi lo stabilisce quale sia il buonsenso? Per me c'è solo una cosa da fare, rispettare quelle che sono le normative che sono date, quindi basta, no, tutto il resto è un di più, sul quale si può discutere filosoficamente per giorni e giorni. Se uno rispetta la distanza, le mascherine, lavarsi le mani, il buon senso. E chi stabilisce qual è il buon senso? Andare a fare una cena da tuo nonno è buon senso? Andare in Croazia per festeggiare la maturità è un buon senso? Per me sì, se uno vuole andare in Croazia, se non è vietato e non era vietato. Abbiamo un virologo da sentire, che mi era venuta una curiosità, no, veramente una curiosità. Nel senso, se uno... Picchio forse, no, non lo so, che curiosità hai? È la seguente, se... chiedi a me. Cioè, allora, se uno è asintomatico, quindi sì, non sviluppa sintomi, probabilmente il corpo non si prende neanche la briga di creare anticorpi, quindi il virus potrebbe, perché appunto non ti dà problemi, quindi il virus potrebbe stare ipoteticamente nel naso e nella gola per sempre senza creare problemi e quindi si potrebbe essere positivi per sempre al tampone senza avere sintomi. Senza avere sintomi e senza neanche trasferirlo. E quindi obbligato, esatto, è infatti, obbligato a rimanere poi a casa per sempre. So. Se abbiamo un virologo al volo. Cioè, al volo, così. In ogni caso, ecco, invece un altro ascoltatore chiede, con buon senso, ma si può stare 2 mesi sequestrati in casa? Ecco, invece questo non, nessuno se lo chiede e nessuno si pone la questione. 2 mesi sequestrato in casa, questo invece è... State a casa! Buon senso. O chi mi scrive, sono 6 mesi che non possiamo fare cene. Ma in base a quale principio? Chi l'ha detto? Mangia da solo! Sono vietate le cene? Sfida Lucchetti, c'è un DPCM del governo e del Ministero della Salute che vieta le cene? A me risulta che se ci uno tieni alla salute pubblica devi evitare le cene. Ma perché? E mangiare in modo frugale. Chi l'ha detto? Anche. Se uno di tonno. Rispetta le norme, può fare le cene. Scatole perché di tonno. Invece gli italiani, alcuni o se ne sbattono, oppure quelli si mettono 100 regole in più di quelle che bastano già, che ci sono. Invece no. Va bene. Comunque abbiamo scatenato un po' di putrefatti. Ho trovato il virologo Mirio Lucchetti per chiedere, porre la mia questione. Ma non è che chiamiamo un virologo così. Ma ce n'è pieno in Italia ormai. Vabbè, insomma. Guarda che cerco virologi. Salutiamo il sindaco. Intanto io cerco virologi su Safari. Su Safari. Neo sindaco di San Gennaro Vesuviana. Buongiorno Antonio Russo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quando abbiamo letto che è stato eletto con il 100% dei voti, siamo rimasti un po'... Però in realtà c'è tutta una spiegazione sotto. Intanto lei era l'unico candidato. Sì, è così in effetti. L'unico candidato. Ma come mai? Come si fa ad arrivare a essere l'unico candidato? Si fa che per... Quando si raggiungono questi risultati, sono dei risultati eccezionali che vengono fuori da un percorso condiviso in coerenza, un percorso che è iniziato 3 anni e mezzo fa, quando sono stato... sfiduciato, diciamo, alcuni consiglieri comunali si sono dimessi, determinando il decadimento del mio mandato amministrativo. Sì, sì. Abbiamo lavorato in questi 3 anni e mezzo con molta dedizione, con impegno, con coraggio. La gente ha capito e ci ha premiato, e questo è il risultato che abbiamo ottenuto dopo un lungo lavorio. Ma ci ha dato questa grossa soddisfazione. Sì, perché ricordiamo che, vabbè, insomma, grossa soddisfazione, certamente. Lei, essendo l'unico candidato, bastava arrivare al quorum degli aventi diritto. Una volta che si è maturato il quorum degli aventi diritto, con le urne già ancora aperte, lei sapeva già di avere vinto. Questo è il dato di fatto. A meno che tutti non fossero andati a votare scheda bianca, però credo che lei, per esempio, già si sarà votato. Per forza. Ma sì, assolutamente, penso che la gente poi andando a votare non andava per votare scheda bianca, perché altrimenti avrebbe preferito l'astensione piuttosto che andare a votare scheda bianca. Sì. Quindi non si sarebbe nemmeno scomodato per andare a votare. Certo. Ecco. La lista civica, sai Leonardo Manera come era la lista civica del sindaco? Mm. Obiettivo San Gennaro, ma perché è di San Gennaro Vesuviano? Però l'allusione non è male. Obiettivo San Gennaro. C'è anche un po' un ammicamento ai credenti. Dai, su. Si ammica ai credenti. Ma è lei tutto che punta. Ha un senso, a parte che San Gennaro è il nostro patrono e quindi grazie a San Gennaro anche. Ma poi dobbiamo dire che lo scopo di questa lista è proprio risollevare le sorti di questa comunità sangiparese che da anni è attanagliata da una situazione drammatica, una serie di commissariamenti. Noi ci siamo messi in gioco con coraggio e determinazione per il riscatto della nostra comunità e di San Gennaro Vesuviano. Questo è il motivo per cui l'abbiamo chiamato obiettivo futuro, perché crediamo veramente il nostro obiettivo non è altro se non San Gennaro. San Gennaro, stupendo. Certo che il 100% dei voti, cioè questo ha ottenuto, 100% dei voti. È un bel risultato. Ma un risultato, ma c'era solo lei, sindaco, adesso. Ma infatti è questo il motivo per cui penso voi mi abbiate chiamato. Sì, sì, questa condivisione e questa attenzione particolare, tra l'altro io ringrazio voi tutti quanti, stanno dando particolare attenzione in questo periodo. Speriamo di averne anche in futuro, perché sarebbe bello raccontare la storia precedente, come mai siamo arrivati a questo punto e come si è determinata questa situazione di acclamazione popolare totale, insomma, che significa che c'è una parte buona, cioè tutta la cittadinanza sangiennarese ha pensato che noi siamo il buono del comune, quindi ci ha sostenuto e ci ha votato. C'è stata anche un'inchiesta in passato, so che lei dice è stato assolto. Queste sono le note dolenti, c'è stata addirittura un'inchiesta, c'è stata una commissione straordinaria, quindi 3 anni e mezzo di commissariamento, abbiamo presentato un ricorso al TAR che è stato dichiarato inammissibile in quanto noi eravamo stati già sfiduciati e ci teneva fuori quindi da questa situazione. Il problema è che comunque nonostante tutto si è andato avanti in questa fase di commissariamento anomalo che nessuno ha capito per quale motivo, e questo è un caso giudiziario importante che io vorrei poter rappresentare in altri sedi o in altre occasioni, per me sarebbe molto molto interessante per un riscatto dell'intera comunità sangiennarese. Speriamo di avere la possibilità magari in futuro di poterlo fare. Sì, allora, in ogni caso, caro sindaco, complimenti, ma lei ha fatto i comizi, no? Non ce n'era bisogno. Questo è il bello, abbiamo anche fatto i comizi. L'importante era raggiungere il quorum, cioè convincere le persone andare a votare. Non avevamo un nemico politico, ma avevamo un nemico, diciamo, burocratico, che era il quorum e che era l'astensionismo. Quindi abbiamo dovuto sensibilizzare la gente al voto, fare comizi, spiegare le motivazioni di questa scelta, il coraggio, perché andare avanti nonostante tutte queste situazioni che si potevano anche un poco sconfortare, sconsigliare dallo scendere in campo. Noi abbiamo scelto la strada più difficile, quella più coraggiosa, quella più orgogliosa, e alla fine abbiamo dato questo segnale di condivisione totale. Che qualcuno si è candidato e sindaco. Lei sa che d'ora in avanti però non potrà che peggiorare il suo consenso, cioè avendo raggiunto l'apice da qui in avanti per lei comincerà una decadenza di consenso inarrestabile, anche dovesse essere eletto col 90%. Anche in famiglia qualcuno dice non sono d'accordo, basta un familiare e lei... Sarebbe stata la stessa cosa se fossi stato eletto con 50%. Il consenso è sempre difficile mantenere. Quello è vero. Politica, però dal 100 si scende e basta, glielo diciamo. Qui è ancora più semplice perché si può solo scendere. D'altronde chi fa politica sa bene che il consenso è difficile mantenerlo, il problema è conservarlo. Sfida per i prossimi 5 anni, anche per una questione di giustizia, trovare un candidato che la sfidi alla prossima. Vengo io. Spero che sia possibile che ci sia un confronto democratico, anche se anche questo è un confronto democratico, perché si è visto la partecipazione è stata fortemente democratica e massiva. Sindaco, la ringraziamo. Antonio Russo, neo sindaco di San Gennaro Vesuviana, con la lista obiettivo San Gennaro. La prossima potrebbe essere Preghiamo San Gennaro, non so, la lista che concorrente. Mi sembra una ironia fuori luogo la tua. No, questo sindaco, il sindaco è ortopedico. Se fosse stato virologo, avremmo potuto chiedere. Ma è ortopedico, non è proprio quello che cerchi tu. L'hai trovato il virologo? No, adesso lo cerco durante la borsa. Sì. È arrivato Mauro Meazza con un fare oggi molto aggressivo, devo dire. Beh, insomma. Ma oggi ho visto passare Deborah Rosciani. E anche lei. Elegantissima. Non ho mai visto, di solito no. Ma come di solito no. Ma come ti permetti? Ma no, mi permetto. Ma è elegantissima, ma sei uno screanzato. No, è la prima volta che ma la sei vedo. Un maleducato. In 4 anni è la prima volta che la vedo così elegante. E mi chiedo come mai, qual è la cagione. Sei un maleducato. Ma è la prima volta che la vedo così, Deborah. Ma non è vero, è sempre così. Mai una volta. Così. Anzi, la vedo sempre con una ragazza. Guardate, no, vorrei precisare all'umanità che sono in jeans e t-shirt. No, non quindi è vero. Per fortuna che ci sono le dirette Facebook, da dove. Poi potranno. Non sono jeans. Ho visto un pantalone chiaro, una maglia. Un jeans chiaro e una maglietta chiara. Molto elegante, Deborah. Mi chiedo qual è il motivo di questa tua eleganza inconsueta. Lascialo stare così. Lasciamo sognare la collettività. È un maleducato. Va bene. A te per la borsa. Grazie. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, io sono sempre dalla tua parte, ti trovo una persona splendida e intelligente, ma il buonsenso lo dice la logica. Se in Croazia c'è la peste, io non ci vado. Niente. Continui a dire che all'epoca non c'era niente in Croazia, ma... in Croazia c'è la peste. Vai, ancora Alpino. Niente, è come parlare con. Cioè, nel senso, non ci capiamo. Ma è colpa mia, sicuramente è colpa mia. Mi prendo tutte le colpe, così va bene così. Colpa mia. Stamani non ti sento più. Riaccendo la radio domattina perché più di un giorno senza ascoltarti non ci posso stare. Ma dove non arrivano, anche se c'è la legge, c'è il buon senso. E questo ragazzo purtroppo mi dispiace, ma non è che abbia avuto tanto buon senso. Non ha fatto buon senso. Vabbè, cioè questo ragazzo si è informato con la Farnesina. Il ministero degli affari esteri che ha detto che non c'era problema andare in Croazia, ci vuole buon senso. Se è una capacità di capire che in certe situazioni è al di là delle leggi, lo vogliamo capire che è il buon senso, che bisogna agire secondo le regole di buon senso. Il miglior messaggio di questo ascoltatore, che non sei capace di capire questa cosa basilare. Running, Movida e Croazia is the new sesso, droga, rock and roll. Quindi sei voluto andare in Croazia, caro ascoltatore, consentito dalle norme, dalla normativa, consigliato, non sconsigliato dal Ministero degli Affari Esteri? Colpa tua, il karma ti ha colpito. Ma forse adesso non bisogna nemmeno essere troppo cattivi con gli ascoltatori. Magari non hanno capito che in quel periodo la Croazia non era tra i paesi sconsigliati. Sì, ma sai quali sono le regole, per esempio, dei fumetti? Me lo raccontava uno sceneggiatore. Sì. Che ogni cosa in modo diverso va detta per 3 volte. Ma l'abbiamo detto 56. 56 è troppo. Cioè, oltre 3, da 4 in su non si capisce. Perché metti che magari la signora un momento è andata in bagno, un altro giorno, un altro momento stava facendo un'altra cosa e non ha sentito che in quel periodo la Croazia non era sconsigliata. Io conosco tantissimi amici, care persone, che quest'anno sono andate chi in Grecia, chi in Spagna. Sono persone ligie, pagano le tasse, serene, rispettano le norme, rispettano ogni regola, non sono dei banditi, criminali, disgraziati, farabutti, sono delle persone per bene, civili, amiche, care, rispettose delle norme. Bisogna anche dire che tu però hanno molto buon senso. Perché tu stesso, da parte di una signora anziana, sei stato accusato di fare la movida e di volere la morte di questa signora, quindi sei evidentemente dalla parte. Ero un tavolino, stavo prendendo l'aperitivo con la mia amica Chiaretta, senza mascherina, a distanza, all'aperto, è passata questa signora anziana e ha detto: andate a casa che così ci ammazzate tutti. Io non mi sento di ammazzare nessuno, ecco. A me è capitato in banca. Ero in banca a un metro dalla signora, davanti a me una signora anziana, entrambi con la mascherina, a un metro. E questa signora si è voltata di scatto e mi ha detto: via, via, chi mi vuole uccidere? Via, che c'è il virus! E signora, devo fare. Tu vuoi un po' uccidere le via, anziane. Chi mi vuole uccidere, che c'è il virus? E signora, ho la mascherina, sono a un metro. No, via, no, via! Tu sei uno con quella faccia. Ogni tanto me l'hai detto al proposito di uccidere un'anziana, così adesso ne uccido una. Scherzo, ovviamente. Allora, prima ci interrogavamo sul nome delle liste civiche e tu, nel gran pezzo che hai fatto, ti sei concentrato soprattutto sulle liste civiche di un comune, dicendo chissà perché, sì, chissà come si chiamano le liste civiche a Trucazzano, questa cittadina che c'è tra Milano e Monza, più verso Monza. Come si? Ipotizzavo espresso... Trucazzano Libera, Insieme per Trucazzano, Trucazzano Domani, Amici di Trucazzano, Trucazzano per sempre, Trucazzano Capitale, Trucazzanissimo. Trucazzanissimo. E avevi anche un desiderio, ma chiamiamolo sindaco di Trucazzano, Franco De Gregorio, sindaco di Trucazzano, perché ogni desiderio di Manera è un ordine. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Lei è stato eletto con la lista civica? Sì, assolutamente sì. Vorrei sapere come si chiamava allora. Sì, certo. Prima il nostro comune. Anche voi. Ma ci sono molte cittadine che come lista civica portano questo nome, prima il nostro comune. Tra l'altro Manera ha detto prima il nostro comune, sarà sicuramente allora della Lega. Può confermare? Ispirazione leghista. No. Probabilmente abbiamo fregato qualche elettore leghista così. Certo, il sovranismo di Trucazzano. Di che orientamento è? No, era una lista civica di centrosinistra. Centrosinistra, quindi Manera neanche questa. Beh, però è vero, siete stati un po'. Insomma, avete ammiccato al primo agli italiani col primo il nostro comune. Prima Trucazzano di Concorezzo, insomma, che ci sarà anche un po' di rivalità. Come mai avete ammiccato così alla destra se siete di centrosinistra? No, beh, non è stato un ammiccamento, era un po' per far sì che la gente capisse che, insomma, vogliamo dedicare il nostro tempo fattivamente sul comune di Trucazzano, ecco, senza avere legami con i partiti, cioè non c'entra niente la politica ai nostri livelli, noi dobbiamo amministrare punto. Ma certo, io vorrei sapere invece da Leonardo Manera perché ti è venuto in mente di fare il pezzo proprio su Trucazzano, così tu ieri ti sei messo lì e hai detto Trucazzano. A me per esempio piace sempre, cito Forlimpopoli, perché anche come suona un comune, no? A tre Trucazzano. Mi è venuto in mente perché tanti anni fa, parlo dell'87-88, c'era un comico che faceva un pezzo su Trucazzano, adesso non ricordo più di cosa parlasse questo pezzo, ma mi è rimasto sempre impresso il nome, cittadina che poi non ho nemmeno mai visitato. Cosa c'è di bello da vedere a Trucazzano, per esempio, per chi volesse venire in vacanza a Trucazzano? Innanzitutto facciamo parte del parco Adda Nord, e quindi, come dire, come territorio è ancora abbastanza, mi passi il termine, vergine, insomma, non è ancora cementificato al 100%. E poi abbiamo quattro frazioni, oltre al comune abbiamo la frazione di Cornigliano Bertario, dove è un paese, diciamo, di origine medievale, dove c'è ancora un castello che si può visitare, insomma. Quindi insomma il castello, il verde, il parco. Poi vicino a noi, appunto, si mangerà bene, c'è l'Adda. Assolutamente sì, c'è l'Adda, c'è il canale Muzza, quindi ci sono diverse opportunità per fare. Canale cos'è? Canale Muzza, che è un canale Muzza, che deriva sempre dal fiume Adda, da Cassano, e passa da noi e arriva fino a Lodi. Vabbè, stupendo. Quindi, come dire, ci sono dei percorsi da fare. E invece una cosa, ci dica una cosa brutta di Trucazzano. Da evitare a Trucazzano. Un ristorante dove si mangia male, no, per esempio. Questo non lo può fare il sindaco. No, assolutamente no. Nei ristoranti di Trucazzano si mangia bene. E si mangia cucina lombarda, e quindi risotto, cassola, la milanese, la cassola, la polenta, tutte. Cose brutte di Trucazzano, dai, una ce ne sarà, un incrocio da sistemare. Noi l'abbiamo chiamato Ecomostro, comunque una struttura che è qua da diversi anni e che andrebbe, come dire, completata è rivista e abbellita, ecco, tutto. Comunque, qua, giusto per smentire per l'ennesima volta Manera, lei ci conferma, non è proprio vicina a Monza, come ci dicono molti ascoltatori, non c'entra con Monza, tu no, l'hai confusa con Monza, concorrenza, diciamo... Manera non ne azzecca una, si azzecca sì, non so se Manera magari ha girato paesi limitrofi tipo Cassano d'Adda, sì, Cassano d'Adda, sì. Cosa c'entra con Monza? Siamo vicini a Treviglio più che a Monza, se, cioè, proprio, ma niente, ma lasci siamo perdere proprio... sindaco. Lasci faccio, stare. Un po' di faccio un po' di geografia al buon Manera. Sì, sì, ma guardi, cioè, le ha dato del leghista, non che si, non come insulto, nel senso, e ha sbagliato. Non sapeva vicino a Monza, niente, non ne azzecca. Mi sono fatto questa idea che Trucazzano sia vicino lì a Concorrezzo Monza. Ma no, perché suona un po' così. Siamo un po' un comune limitrofo con la provincia di Cremona, perché siamo vicini a Rivolta d'Adda, e con la provincia di Bergamo, perché siamo vicini a Treviso. Proprio, quindi 3 in geografia Leonardo Manera, ottimo. Ma diamogli con 4 di incoraggiamento. Dai, 4 via. E mezzo. Io sono stato in tutti i paesini lì della zona, sono stato a Cassano, Vaprio, Rivolta. Bene dopo come sono non sono mai passato da Trucazzano. Rimedierò. Quando ha un'occasione di passare da queste parti, mi chiami, la ricevo più che volentieri. Eccolo qua, vedi, il potente di turno Leonardo Manera anche oggi ce l'ha fatta ad avere un caffè almeno. Grazie sindaco, grazie Franco De Gregorio, sindaco di Trucazzano, che non si trova vicino a Monza. Io infatti avevo dei dubbi, perché una volta quando giocavo a tennis ero andato da quelle parti a fare una, però io nel dubbio sto zitto, mentre Manera fa lo smargiasso nel dubbio e colloca. Ma sai e dice perché, le cose, sai così. Perché oggi sono, non sono, è perché sono rimasto colpito dall'eleganza di Deborah Rosciani. L'ho rivista passare adesso, non riesco a distogliere lo sguardo. Sì, da... sì, eleganza, ma guarda che oggi è passata qui nei nostri studi che sono a vetri, quindi si vede tutto. E ha fatto un gesto poco elegante, sì, devo dire. Però io noto che oggi è più elegante del solito. E siccome le ho fatto un complimento, non mi si dovrebbe fare quei gesti, ma anzi dire grazie, Leonardo, che hai notato questa così mia eleganza, questo mio normale. Outfit, questo outfit particolare. Comunque c'è anche un caso clinico, perché un ascoltatore scrive: allora, io che dalla Norvegia sono venuto in Italia per vedere Manera a Bologna, il buon senso vi avrebbe fatto desistere. Qui non c'entra il Covid, caro ascoltatore, qui non c'entra il buonsenso. Uno che prende un aereo dalla Norvegia e torna per vedere Manera, secondo me è più un caso psichiatrico. Però spero che sia stata una serata piacevole e niente, insomma. Comunque, dalla Norvegia effettivamente il buonsenso non c'è stato. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signori, c'è questo messaggio, è stupendo. Andrea da Lavagna, ecco, provate a porvi empaticamente nel lavoro di Andrea da Lavagna, titolare di un'agenzia viaggi, che dice e ci scrive: non sapete cosa mi è toccato sentire quest'estate, proponevo viaggi in Europa in paesi non a rischio, lo dico 3 volte, non a rischio, la terza dillo tu Manera, non a rischio, quindi abbiamo rispettato la regola dei fumetti, e mi guardavano i clienti come se spacciassi droga o sigarette clandestine. Vabbè, chiude, forza e coraggio, lo diciamo noi a te Andrea, forza e coraggio, insomma, è uno che rispetta le leggi, ma è così. Ah, lei è pazzo, cioè un drogato spacciatore, un viaggio in un paese. Però tu dovresti anche fare un po' di mea culpa. Sì. Perché è facile accusare i cittadini quando poi sono stati soprattutto i media che hanno creato questa situazione di continuo allarme. Sì. E tu fai parte dei io media in quanto media, tesserato tra i giornalisti. Io spero di poter parlare per me stesso. Per me stesso. Allora dovresti rinunciare alla tessera dell'ordine dei giornalisti, per coerenza. Ma siccome ti garantisce dei privilegi, la mantieni. Stavo dicendo, per quel qui mi dà, cioè mi toglie solo 100 euro l'anno, per quel che mi dà. Che non sono tante. Ti dà dei benefit. Ma che benefit? Sì. Ma quali benefit? Viaggi in treno gratuiti? Ma assolutamente no. Automobili a noleggio a basso costo? Ma no, assolutamente sì, così. No. sei rimasta un mondo della vecchia casta come i politici, i quali treni gratuiti me li pago tutti giustamente. Allora, aerei in business. Allora, per stemperare un po' la tensione, per darci i consigli per stare un po' meglio, è arrivato il professor Janssen. Finalmente la psicologia spiccia, devo dire. Oh, professore, buongiorno. Buongiorno. Bisogna restabilire, buongiorno, un po' di calma, calma perché c'è tanta, sento che c'è tanta cattiveria in giro, rabbia, no? La rabbia è un sentimento che non ti fa stare bene, Alessandro. No, è vero, e recuperiamo questo metodo di stare bene, un po' che non ne parliamo. Io ho passato l'estate in giro, devo dire, per tutta Europa, anche nei paesi a rischio. Ma per presentare il mio libro, mi facevo provare la febbre, me la provavo 70-80 volte al giorno. Andavo dal 32 al 49 con quei misuratori di febbre. Ho presentato il mio libro che su un tema importante, quello delle relazioni sociali, visto che parliamo di rabbia, no? Okay. E un tema importante nelle relazioni sociali è l'assertività. Tu sai che cos'è l'assertività? Essere assertivi, certo. È la capacità di esprimersi in modo chiaro ed efficace, esprimere le proprie emozioni e opinioni, possibilmente senza offendere l'interlocutore. Le persone assertive devono essere anche dotate di grande sensibilità. Per esempio, se un tuo amico vuole combattere su un combattimento tra galli o cani, ma come? Una roba bruttissima. Tu gli suggerisci su quale gallo o quale cane puntare. Ma no, la denunci i combattimenti tra cani e galli. In modo preciso, sei assertivo. Ma anche se continua a comprare questo amico dei gratta e vinci, non vince mai, è diventato povero, ma tu gli dici continua a crederci, sei assertivo. Sì, ho capito. Mettiamo che il tuo capo dice che hai lavorato male e devi rifare una presentazione. Vabbè. Se tu sai che è allergico alle nocciole, puoi portare in ufficio una torta alle nocciole dicendo che non ci sono dentro nocciole. Bastardo. Sei assertivo, no. L'assertività è importante. Questi comportamenti vanno bene, però attenzione, perché a volte essere troppo assertivi può mettere a rischio la nostra felicità. Cosa fanno le persone assertive? Dicono sempre quello che pensano, sono sempre sincere. Questo va bene se come me prendi 500 euro all'ora più IVA o 300 senza fattura, anche perché non far fattura fa parte del metodo di stare bene, ma altrimenti tutta questa sincerità può provocare la tristezza. Allora io oggi voglio darvi un consiglio per difendervi dalla tristezza. Allora prendiamo una situazione che conosciamo tutti, un pranzo in famiglia. Sì. Cosa dobbiamo fare quando c'è un pranzo in famiglia? Dobbiamo dire che non ci andiamo a rischiare di deludere qualcuno? No. Dobbiamo camuffare la nostra voce al telefono con un fazzoletto per fingerci malati? No. Ma cosa dobbiamo fare per non offendere nessuno? Mandare un sosia al posto nostro. Come un sosia? È una cosa che va coltivata fin da bambino, pensando che da grande poi avrà questi pranzi pesanti in famiglia. Un sosia credibile, gli fai un piccolo casting in un'agenzia dei sosia, gli passi i tuoi vestiti, gli insegni bene la parte. Se tu hai i baffi o la barba, il tuo socio deve mettere ovviamente i baffi e la barba posticci. È importante che non cadano nel piatto mentre è a tavola, altrimenti può essere smascherato. L'altra cosa importante è che il tuo socio impari uno di quegli aneddoti simpatici che è bello ricordare in tutti i pranzi in famiglia. Per esempio, quella volta che hai lasciato tuo cognato in un bosco a 25 km dal primo centro abitato senza telefono o senza portafogli. Lo scherzo classico dell'addio al celibato. Se il tuo sosia, che è utile, imparerà bene la parte, riuscirà a essere odiato a tutti i tuoi parenti proprio come te. E così, mentre lui sarà a intrattenere i nonni e gli zii, tu potrai andare in giro a farti i fatti tuoi e riuscirai a proteggerti dalla tristezza. Il sosia, chi non ha un sosia in tasca? La tristezza è come il salame, ogni tanto va bene, ma è meglio non abusarne. Troppa tristezza e troppo salame fanno male al fine. Tristezza è come il salame, bella questa cosa. Vabbè, e questo è il metodo di stare bene. Il sosia, chi non c'è? Trovatevi un sosia. Avete anche uno scopo della vita con il sosia. Tanti non hanno più gli scopi nella vita, no? Se tu cominci fin dall'adolescenza a cercare il sosia, poi